Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lunedì 23 di luglio del 2012, questa è Radio 24, sempre il meglio di voi siete qui. Tenete duro ancora una settimana e poi è finita. Questo lo dico per quelli che vanno in ferie ad agosto. In generale, diciamo il 70% delle persone che fanno un lavoro più o meno regolare va in ferie ad agosto. Per tutti gli altri invece non tenete duro, insomma, vedete, fate quello che volete in base a quando farete le ferie, se prima o dopo, se le avete già fatte o se le dovete fare invece molto più tardi. Noi di fatto abbiamo ancora una settimana in onda con Il Meglio di Voi Siete Qui, poi facciamo una pausa per tutto il mese di agosto e poi torniamo i primi di settembre con la diretta ufficiale di Voi Siete Qui, seconda stagione. Oggi sono felicissimo di aprire con un racconto che ha aperto anche la serata live che è andata in onda praticamente un mese fa, è andata in diretta più che in onda, è stato uno spettacolo dal vivo il 19 di giugno del 2012 qui dalla Sala Collina di Radio 24, c'è stato il live di Voi Siete Qui, live che potete trovare ancora sul canale YouTube del nostro programma Voi Siete Qui, al canale ci accedete attraverso la pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24, c'è tutto il live e se andate lì e avete voglia di risentirvelo e di rivedervelo, magari dopo averlo sentito adesso in diretta, il primissimo racconto era esattamente questo, parlava di una storia eccezionale, perché si parla di una vincita al Totocalcio e vorrei veramente, si contano, non credo sulle dita di una mano, ma insomma non sono tantissime le persone che fanno 13 al Totocalcio, chi le conosca batta un colpo, io no, o meglio non le conoscevo fino a prima di conoscere Alessandro, che quella sera venne direttamente da Ravenna o da Ferrara, siamo indecisi in redazione se Alessandro è di Ravenna o di Ferrara, tant'è, chi se ne frega, venne comunque apposta fino a Milano per partecipare al live. Insomma, parla di una storia, dicevo, eccezionale, perché parla di una vincita al Totocalcio, però parla soprattutto di una storia semplice, che è la storia di una famiglia con qualche problema economico e di una domenica pomeriggio italiana con le partite di calcio alla radio, ancora all'epoca erano gli anni 80, e poi il 90° minuto e Paolo Valenti che arriva e annuncia a tutti quanti che loro hanno fatto 13. Non è un thriller, quindi vi posso dire che hanno fatto 13, perché lo dichiara sin da subito. È tutta la storia, il modo in cui è raccontata e del modo in cui racconta quello che accade dopo nella sua vita, il modo in cui lo fa Alessandro è molto bello, è molto emozionante e soprattutto, lo ripeto, non finirò mai di ripeterlo, anche se è una storia, ripeto, straordinaria, perché non tutti vincono al Totocalcio, in realtà è una storia di tutti, è una storia mia, è una storia di Paolino, è una storia di Tiziano ed è una storia di Margherita. Mettetevi comodi e ascoltatevi questo racconto, 13 al Totocalcio. Era il 1980, io avevo 9 anni. Una grande passione per il calcio e l'intera collezione di figurine Panini. Immagini mitiche di quei calciatori con le maglie attillate, i baffoni spioventi, le basette esagerate e capelli aggrovigliati, su facce da mastini. Niente stranieri, solo campionati autarchici, pieni di 0-0 nebbiosi. La mia squadra era il Bologna, il mio idolo all'epoca era il centravanti Stefano Chiodi. Ogni sabato mattina, dopo la sosta al panificio, io e mio babbo ci facevamo strada tra il fumo denso che ammorbava il bar Cirenaica sulla via Emilia, periferia della città che guardava già verso Modena, e ci sedevamo a un tavolino appartato, un tavolino vicino ai biliardi, e per mezz'ora facevamo la schedina. Una colonna a testa, lui chiamava ad alta voce tutte le partite e io davo il mio segno. Lui tirava la sigaretta pieni polmoni e scriveva il suo. Niente sistemi, colonna secca, 1, X o 2. Guerri sportivo alla mano, si analizzavano gli ultimi risultati, si commentavano le prestazioni dei singoli, davamo un occhio alla classifica, gol fatti, gol subiti, lucidi, mai passionali. O almeno provavamo. Mio babbo ogni tanto la sparava grossa sul Bologna, pronosticando vittorie inverosimili per una squadra che vedeva spesso la salvezza alle ultime giornate. È stata una passione proprio che mi prendeva tantissimo. Seguivo prima di tutto comunque il Bologna, perché era la squadra della mia città. Conoscevo praticamente tutti i giocatori, sapevo le statistiche a memoria, proprio ero un super esperto. Ovviamente il Bologna era la squadra che era, quindi non era sicuramente al top, per cui in quel periodo ovviamente c'era sempre la Juve, che era sicuramente la squadra più forte. Quel sabato di novembre battezzai un solo 2, Torino-Catanzaro. Mio babbo, riportando il segno sulla schedina, fece una smorfia. Lui vedeva ancora nel grande Torino il toro, il grande toro, quello che pochi anni prima aveva vinto lo scudetto. Quindi lui senza esitazioni mise un 1 sulla sua colonna. Arrivò la domenica pomeriggio e quel giorno Massimo Palanca, il capitano dei calabresi, fece il miracolo. Io ero in soggiorno ad allenarmi, tiravo le punizioni con il subbuteo e tenevo un occhio agli aggiornamenti, quelli che scorrevano in TV, sopra a Corrado, che presentava la domenica pomeriggio in bianco e nero. Alla fine delle partite andai da mia mamma. Lei stava lavorando in cucina. La guardai e le dissi: «Mamma, secondo me ho fatto 13. Lei aveva già alle spalle 25 stagioni di schedine accartocciate e non reagì più di tanto. Ma io non potevo aspettare. Andai a svegliare mio babbo. Dopo qualche minuto di sbuffi, lui aprì gli occhi in maniera definitiva. Tornai in soggiorno. Mi misi ad aspettarlo vicino alla sua sedia. Lo vidi apparire nella classica tenuta da domenica pomeriggio autunnale, pesante tuta turchese e calzini di lana grossa. Passò una manciata di minuti prima che comparisse il faccione di un giornalista della RAI a dare i risultati e i marcatori. Mentre sullo sfondo passava una foto di Bettega. C'era lui mentre salta, occhi chiusi e spettinato, e Castellini sdraiato per terra. Il giornalista scandiva lentamente i risultati, in modo da consentire a mio babbo di riportare il relativo segno sulla schedina. Una roba da 30 secondi in tutto. Ecco, quegli istanti sono tutti davanti ai miei occhi. Il viso di mio babbo dapprima concentrato nella scrittura e poi nel successivo controllo delle due colonne e alla fine sfigurato in un urlo che diceva: «13! Hai fatto 13!» Mia mamma arriva quasi preoccupata, non poteva concepire che si potesse vincere al Totocalcio. Quindi volle controllare lei di persona. Non sapeva nemmeno cosa fosse un 2, però volle comunque assicurarsi che mio babbo non avesse detto una boiata. E non l'aveva detta. Avevo fatto 13. E fino a quel punto ero il cocco di mamma, diciamo. Poi in quel momento per mia mamma sono diventato una specie di, insomma, di mito, perché il fatto comunque di avere una vincita di quel tipo che ci ha consentito anche per quello di comprare una casa è diventato un po' un mito per mia mamma. E da quel punto di vista magari, insomma, per mio babbo è stato un po'... non l'ha vissuto benissimo, diciamo. Le due ore successive furono interminabili. Come per le azioni filmate, anche per le quote delle vincite si doveva aspettare il 90° minuto. Mio babbo cercava di smorzare gli entusiasmi. «Calma, calma, calma!» La schedina era un mare di X. Una colonna di quel tipo poteva dare al massimo 1 milione. Certo, c'era però il partitone del Catanzaro. Mia mamma ghignava nervosamente, alzava gli occhi verso il soffitto e scuoteva la testa. A quei tempi la mia famiglia non se la passava bene. Eravamo sotto sfratto e i miei avevano fatto un passo troppo lungo: comprare casa. Una sera il babbo era tornato con una busta. Aveva ritirato dalla banca tutti i risparmi della famiglia. 8 milioni. Beh, francamente pochi se ti sei impegnato per una casa da un centinaio. Roba da mutuo da tramandare alla quarta generazione, o meglio, roba che se non si trovava qualche soldo il mutuo non ce lo davano proprio. E poi in TV arrivò Paolo Valenti con la sua bella giacca a scacchi e ci disse che avevamo vinto 15 milioni. Quei soldi ci consentirono di comprare quella casa dall'altra parte di Bologna. Lì passai la mia adolescenza, conobbi gli amici che sono gli amici di oggi, diedi il primo bacio, feci tutte quelle cose che tra i 10 e i 20 anni indirizzano l'esistenza di una persona. Il tutto per un gol di Palanca. La spiaggia di Guardia Rovente era piena di gente. Si parlava di sport, di Pertini e Berzot. Io ignaro di questo, ignaro di tutto, fabbricavo castelli di sabbia con paletta e secchiello ed in testa un cappello. E lei stava senza mutande, ma io non la guardavo neanche. Mi infilavo i braccioli e poi dritto nel mare. Non sapevo neanche cosa fosse l'amore. 10 anni più tardi la vidi vicino a un falò e bruciava la carne, e bruciavano canne. Io stavo seduto da solo a suonare la chitarra, a cantare canzoni, a cercare attenzioni. Ma lei non mi guardava neanche, ed io facevo finta di niente. Ingollavo peroni e iniziavo ad urlare delle pene che solo ti sa dare l'amore. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na sulla spiaggia lattina anni Ottanta, quando il mare si incazza e riporta ricordi che avevi coperto di sabbia, palloni arancioni sgonfiati, fare ciao ad un treno che passa e guardare nel cielo la scia di un aereo. E lei sempre senza mutande, ed io che non capivo neanche, e scavavo la sabbia cercando un tesoro. Noi due stretti sotto la doccia, la paura e la voglia di fare l'amore. Il 31 d'agosto c'è una storia che nasce e un'estate che muore. Mi piace il calcio, lo gioco e faccio il tifo per l'Inter. Oh, sì, capita a tutti. Capisco quelli che lo denigrano per mille motivi personali, che non sto qui a discutere. Però a me piace che esista uno sport che si gioca con un attrezzo e un pezzo di terra o di cemento. Una roba che coinvolge tutte le persone che vuoi. Una roba trasversale che funziona dall'Africa alla Svezia. Un gioco semplice, giocare alla palla. E fin da piccolo stavo sempre attento a tutto quello che girava attorno al calcio, figurine e panine comprese. E mi ricordo anche quando il totocalcio era una maniera sì per cercare fortuna, ma era anche un modo per dimostrare a se stessi e al mondo che di calcio ne capivi. Un po' come il fantacalcio oggi. Anche se le partite in televisione non si vedevano. E io potevo solo sperare che mio padre ogni tanto mi portasse a San Siro a vedere qualche partita. E si ascoltava la radiocronaca, si immaginavano le azioni. E poi si leggeva la Gazzetta sempre il giorno dopo, come adesso, però un po' di più. La gente girava la domenica pomeriggio con le radioline in una mano e la moglie nell'altra. Il 13 era tipo una chimera, era un sogno. Era quella cosa che tu ci speri ma fai finta di non pensarci. Però sotto sotto, su quel 13 lì, ci conti sempre un po'. Come quando entri in una chiesa, no? Che io non lo so se c'è o non c'è, però non sarebbe male se Dio esistesse. Non sarebbe nemmeno male se fosse una persona comprensiva. Fare 13 è un modo di dire che è rimasto nella nostra lingua. È un po' come quando gli inglesi dicono bingo, no? Quando gli va bene qualcosa. Infatti lo diciamo quando ci capita una botta di fortuna. Che a volte succede e non è sempre per questioni di denaro, no? Perché la fortuna si presenta un po' a modo suo, un po' come gli pare. Mi ricordo un sacco di anni fa, avevo un amico che si chiamava Davide. Lui voleva entrare in università e aveva il numero chiuso, mi pare, e quindi fece il test di ammissione. E ricordo che per lui entrare o non entrare era veramente una rivoluzione, perché lui avrebbe proseguito gli studi solo se fosse riuscito a fare quello lì, altrimenti faceva un'altra vita. Non era mai stato proprio un genio, e già l'esame d'ingresso era difficilissimo, e quindi aveva dovuto studiare praticamente tutta l'estate. Il giorno delle graduatorie, Davide ha visto che era il primo degli esclusi, il primo. Mi ricordo perché ero con lui. Allora gli diedi una pacca sulle spalle e poi gli offrì un cappuccino, che è un po' il mio modo per dire a una persona che gli voglio bene comunque. E lui mi sorprese, perché mi disse che se ne fregava e il giorno dopo ci sarebbe andato comunque a mettersi in fila per iscriversi, anche se il test non l'aveva passato, perché mi disse: non si sa mai. Boh, magari si sono sbagliati, vai a sapere perché. Magari arrivi allo sportello e mi accettano comunque perché fanno male i conti. Io ho pensato fosse un pazzo, però se lui andava bene così, contento lui. Io poi il giorno dopo non ci andai e gli dissi: chiamami, eh? E lui lo fece e mi disse che si era iscritto, perché quello davanti a lui, all'ultimo momento, proprio mentre era in fila, aveva ricevuto una telefonata in cui gli dicevano che era stato preso in un'università americana. E allora, grazie e arrivederci a tutti. E Davide, da primo degli ultimi, era diventato l'ultimo dei primi. Ma andava bene così. Ora è laureato, Davide. È senza lavoro, però è laureato. Però in quel giorno era felice, me lo ricordo benissimo. E gli ho detto che era come se avesse fatto 13 al totocalcio. Lui mi disse di no, che era anche meglio, perché quel 13 lui se l'era costruito, perché ci credeva. E la fortuna non c'entrava niente. Perché mi disse: se sei convinto di una cosa, quella cosa prima o poi succede. E secondo me Davide un po' esagerava, però credo davvero che se la fortuna deve arrivare, non è che bisogna aspettarsi che bussi, no? Un pochettino alla porta conviene tenergliela aperta. Ho giocato gli stessi 5 numeri all'otto per 7 anni, mercoledì e sabato, il 18 dicembre del 2004, non ho fatto in tempo per l'imprevisto, ho perso 226.000 euro. Ancora non ho casa. Bene, si parlava di botte di fortuna, però più o meno. Io e mia moglie abbiamo sempre desiderato avere tanti figli. 11 mesi fa abbiamo scoperto che lei era incinta. 9 mesi fa abbiamo scoperto che erano 3. La botta di fortuna più bella della mia vita è questa qua. Silvio da Lecco. 349-238-6666, però io non sto più nella pelle per sentire Alessandro. Pronto Alessandro? Ciao, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao. Bene, bene. Sono appena uscito da una riunione qua a Bologna, insomma, questi 5 minuti mi passo con te, che dopo devo tornare. E allora facciamo in fretta. Senti, cosa vuol dire? Tu sei capo, hai detto quasi capo area di... Faccio sempre fatica a spiegare cosa faccio di lavoro. Sul biglietto da visita c'è scritto marketing manager, che vuol dire tutto, vuol dire niente, no? Okay. E quindi la risolvo di solito dicendo che sono un capo area di ipermercati. Senti, torniamo però a quei 15 milioni di lire. Noi abbiamo fatto una ricerca veloce e 15 milioni di lire nel 1980 equivalgono più o meno a 34.000 euro di oggi. Però chiaramente i prezzi delle case sono ipervalutati, quindi i tuoi fecero un mutuo di fatto grazie a te. Cioè tu gli hai salvato... Diciamo che ho agevolato quel grande passo, sicuramente. E scusami, e quando dicevi che tua mamma, già eri il cocco della mamma, e tuo padre non l'ha vissuta bene questa cosa? Ma guarda, a me non l'ha mai detto mio babbo di non averla vissuta bene, però avere un figlio che ha 9 anni, insomma, ti porta in casa questi soldi, e tu che per 25 anni prima e poi per altri 25 anni dopo giochi la schedina e non hai mai vinto... Insomma, sicuramente non me l'ha mai detto, però tra le righe ogni tanto lo si capiva che un po' rosicava. Ma giochi ancora? Fai ancora schedine o Super Enalotto? Da quei giorni lì, che io mi ricordi, praticamente mai più giocato, niente di niente, né schedina, né gratta e vinci, niente di niente. Senti, ma i tuoi genitori ci sono ancora? Sono... Mio babbo non c'è più da qualche anno, mia mamma invece c'è. Senti, ma ogni tanto riparlate di quella domenica pomeriggio. A parte la tenuta autunnale del babbo, è meravigliosa, che è, scusami, pigiamone turchese, tuta turchese e calzini di lana grossa. Ma con tua mamma ne parlate ancora? Loro vivono ancora in quella casa là? No. No, cioè, lei... poi i miei si spostarono a Imola, quindi comunque sono 20 anni che non abitiamo più in quella casa. Senti, invece cosa ti ricordi esattamente di quella domenica? Tipo del gol di Palanca, cosa ti ricordi? Beh, comunque adesso ovviamente i ricordi, a parte quello che ho scritto, sono su qualche cosa, sono un po' offuscati. Appannati. No? Sono un po' appannati, però ovviamente cioè, la faccia di mio babbo assolutamente, quella me la ricordo, e comunque in generale... Insomma, il fatto di sentire i risultati proprio scanditi uno per uno fino al tredicesimo, quello che è rimasto di più. Poi l'altra cosa è che comunque finiti i festeggiamenti della sera in casa tra Trenini e Girotondi, la cosa tremenda è che mi dissero i miei genitori: è comunque tu di questo non devi dire niente a nessuno. Ma guarda, proprio qua io volevo arrivare, perché questa storia mi ha sempre tormentato. Mio padre mi diceva: no, dovessimo mai vincere qualcosa, non diciamo niente a nessuno. Dice, ma come, scusami, ma no, perché altrimenti ti vengono a chiedere i soldi. Ma qualunque che sia, infatti, io mi immaginavo il giorno dopo di andare dai miei amici a raccontare questa incredibile impresa, invece mi sono dovuto tenere tutto quanto dentro. Beh, e quando è stata la prima volta in cui l'hai detto a qualcuno? Non adesso, spero, non a noi. No, però alla fine sono passati gli anni, magari che è venuto fuori così tra un discorso e l'altro, erano passati così tanti anni che alla fine insomma è sembrata una cosa quasi normale. A mia moglie praticamente, quando ha letto il racconto, mi ha detto: ma vabbè, non sapevo assolutamente che tu avessi vinto al tutto calcio. Senti, è una cosa che è rimasta. Senti Alessandro, se dovessi vedere Palanca, cosa gli diresti? Gli direi grazie, anche dopo 30 anni grazie, perché comunque diciamo che non hai svoltato la mia vita, però sicuramente una botta gli hai data. Senti, io chiedo di fare una puntata di Destini Incrociati su te e Massimo Palanca, vediamo se me la fanno. Alessandro, ti ringrazio tantissimo, ti lascio tornare in riunione. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. La seconda storia che vi racconto oggi, lunedì 23 luglio 2012, è una storia che è interessante anche solo perché a raccontarla è una persona che fa un lavoro molto particolare. Devo dire che uno degli aspetti interessanti nel ricevere i racconti che sono arrivati durante l'anno è innanzitutto di conoscere, anche se solo telefonicamente, chiaramente non le incontro di persona le persone che mandano i racconti, però di entrare prima per un po' nelle loro vite attraverso la pagina di racconto che mandano e poi di sentirli al telefono in diretta e di chiacchierare con loro. Oltre a conoscere un sacco di persone diverse, conosci un sacco di mestieri diversi. Questo mestiere è uno di quei mestieri che quando sei piccolo dici: cosa vorresti fare da grande? Alcuni dicono l'astronauta, vabbè, io dicevo il falegname, cioè dicevo l'astronauta e il falegname, però in fondo avrei voluto fare il pilota. Manuel, questo desiderio l'ha messo, insomma, l'ha realizzato, è un pilota d'aereo e quindi quando ha deciso di raccontarci una storia, ha deciso di raccontarci un pezzo del suo lavoro. È un pezzo interessante perché non è, perlomeno in questo racconto, non ha a che fare con i voli di linea, quindi non ci sono passeggeri, non ci sono hostess, non ci sono attese per l'imbarco, robe di quel genere, quelle cose che poi conosciamo prendendo gli aerei. No, è un volo notturno, è un volo, quindi credo sia un cargo, quindi trasporta cose e non persone, ed è una bella planata sulla notte e su questo paese. Sono le 18, tra poco ceno, vado a dormire, stanotte sveglia alle 11:30, a mezzanotte sono fuori, in aeroporto a mezzanotte 45. Il decollo è previsto alle 2:15. Sono orari pesanti, lo so, ma io non vedo l'ora. A me piace veramente, perché stanotte il mio volo sarà un volo ferry, che vuol dire aereo vuoto. Non ci sono passeggeri che ritardano, signore che si lamentano, niente bagagli smarriti, niente bambini che vomitano, e nemmeno le assistenti di volo, che pensano al trucco e alla piega dei capelli. Faccio questo lavoro non da moltissimo tempo, da circa 5 anni. La cosa che mi attrae di più è il fatto che ti porta a stare fuori dall'ufficio, quindi avendo fatto in precedenza altri lavori è una bella differenza. Si vedono ogni giorno posti nuovi, ogni giorno panorami nuovi. Di notte in volo l'aereo entra in sintonia con il buio. Sembra addirittura che diventi più silenzioso. Adoro il buio. Scorre via come un velluto. Con la cabina passeggeri deserta e le luci spente, immagino che dall'esterno si veda solo la flebile luce rossa degli strumenti, riflessa sui nostri volti. Nascosti dal favore delle tenebre, il nostro cargo ombra sfila veloce verso una destinazione fantasma. Io passo ore a scrutare le città e i paesini che sorvolo, e immagino la gente che dorme, e riempie la notte dei propri sogni di bambino, accarezzati da una dolce musica di Carillon. Di notte vigono leggi diverse, i tempi si rilassano, nessuno ha più fretta. E io ho l'impressione che la notte mi parli. Non ha aspettative, non ha pretese. Attende pazientemente che io pensi con calma che cosa dirle. E se non ho nulla da dire, non è un problema. Non chiede risposte geniali la notte. In giro per gli aeroporti ci sono pochi animali notturni. Voli cargo, voli postali. Intorno agli aerei gira gente strana. Niente divise, poche formalità. Tante sigarette e caffè che scorre a fiumi. Senza la mia giacca coi galloni, senza le mostrine e le strisce dorate, mi sento molto meglio.

quiet night.